This morning, something interesting happened during the interviews. Namely, almost every single retreatant reported about one or the other afflictive emotion. Qualcosa di interessante è successo questa mattina durante le interview, che quasi tutti quanti i meditatori hanno riportato qualcosa circa le emozioni che li affliggevano. So, the following afflictive emotions were mentioned, confusion or ignorance, and suddenly then lust or sense desire, and then aversion, and suddenly then also aversion, fear, anxiety. E dunque queste emozioni, diciamo, che hanno riportato sono come desiderio sensuale, rabbia, avversione, ansia, paura. As well as sloth and sudden torpor and sudden restlessness, worry, regret, and so no one talked about skeptical doubt. E altre come la rimorso, come la restlessness, l'agitazione, skeptical doubt, torpore, dubbio. And so, and then it seems that certain possibly also sorrow was certain there. E anche la tristezza c'era in queste cose che hanno riportato. Now, this being the case, I thought it would be appropriate to give a Dhamma talk on understanding and handling afflictive emotions. E quindi questo mi ha portato a dare un Dhamma talk proprio come capire e come maneggiare con queste emozioni affliggenti. No. If we want to be really precise, then the term afflictive emotion might not be absolutely correct, and it would be more correct to speak of those as unwholesome mental states. Quindi, diciamo, dire chiamarle affliggenti queste emozioni non è proprio corretto, è più corretto chiamarle emozioni non salutari. No. Stati mentali non salutari. When reporting on some difficult mental state, one retreatant remarked, and I thought this was really the point, that observing and dealing with physical pains and aches is easy. Dealing with mental, unwholesome mental states is really difficult. Quindi una cosa che ha riportato un meditatore durante l'interview è che la sua esperienza che avere a che fare con i dolori è facile, invece è molto difficile avere a che fare con le stati mentali non salutari. And so the reason for the mental states, unwholesome mental states, being so difficult to deal with is partly that we tend to identify with them. Quindi principalmente il fatto che è difficile avere a che fare con questi stati mentali non salutari è che ci identifichiamo con essi. And suddenly we take them personally, we get entangled in them, and suddenly oftentimes we also believe the story that suddenly goes along with those mental states. Sì, ci identifichiamo con la storia, quindi rimaniamo incastrati in queste in questi stati mentali. Now, the first unwholesome mental state of certain event I would like to describe during this talk is that of delusion or ignorance, also referred to as confusion. Il primo di questi stati mentali di cui vorrei parlare è quello dell'ignoranza, o descritto anche come confusione. Now, the reason for mentioning this one first is very simple, because it is that that state that underlies all other unwholesome mental states. La ragione per cui lo porto ad esempio per primo è proprio perché è lo stato mentale che sta sotto sotto a tutti gli altri stati mentali non salutari. So if, for instance, worry is present in the mind, we can safely assume that ignorance will also be there. If we assume, or if, let's say, fear has arisen in the mind, again, we can assume that ignorance will also be there. If we find some sense desire in the mind, then again, we can safely assume that ignorance also will be there. Quindi, diciamo, se troviamo nella mente che c'è della preoccupazione, possiamo essere sicuri che sotto c'è anche l'ignoranza, l'illusione, e se c'è uno stato mentale del desiderio, il desiderio sensuale, anche in questo caso possiamo essere sicuri che sotto c'è l'ignoranza. The last point was certain that ignorance then underlies all unwholesome mental states. No. I think that's so. Anyways, this being the case, ignorance is referred to as one and the most important of the roots of all unwholesomeness. Quindi l'ignoranza è una delle radici degli stati mentali non salutari. And certainly when ignorance is prevalent in the mind, then it will cover, so to speak, it will veil our inner mental eye with which we see things. Quindi quando c'è l'ignoranza, questa crea come una specie di velo che copre il nostro occhio interiore. And it covers or it prevents us from seeing the true nature of formations. E quindi copre il nostro occhio interiore e ci impedisce di vedere le formazioni interne. Now, this certain ignorance has been classically defined as certain follows. Namely, its certain characteristic is given as mental blindness or as not knowing. Quindi questa ignoranza viene descritta come cecità, come non conoscenza. We may think that we understand everything. We may think that we understand what life is all about, but this is just a delusion. Potremmo pensare che capiamo tutto, che capiamo che cos'è la vita, ma in realtà questa è solo ignoranza. Now, the function of ignorance is non-penetration. This is one. And the second one is to conceal the true nature of objects. Quindi la funzione dell'ignoranza è la non conoscenza e di nascondere la verità. Now, this certain ignorance is manifested as an absence of understanding or as certain mental darkness. Quindi si manifesta come come buio e come assenza. Absence of mental darkness. Sì, come buio della mente. And certainly its nearest cause, or the condition that leads to the arising of ignorance, is unwise attention. E la causa prossima che diciamo che precede l'ignoranza, che è il, l'attenzione non saggia. Non saggia, non giustificata. Non giustificata attenzione. No. The arising of ignorance or delusion or confusion in the mind usually has goes along with consequences, and these consequences can be quite serious. Quindi il sorgere dell'ignoranza nella mente porta delle conseguenze anche abbastanza serie. So, what certainly will happen if we act out of ignorance? Che cosa succede se ci comportiamo in base all'ignoranza? So, if we act out of ignorance, can we expect wholesome results, wholesome actions to take place? Quindi se ci comportiamo in base all'ignoranza, possiamo aspettarci qualche risultato positivo, qualche risultato salutare? Would this certainly be, can this be expected? Può essere, ce lo possiamo aspettare? No. So, then, what kind of results, what kind of consequences could you think of? E quindi quale tipo di conseguenze potete pensare che vengano? Suffering. No, suffering in expressed in a general way. Could you be more specific? Anger. Dice sofferenza, rabbia. Yeah, okay. And out of anger, what certainly might you do? Violent action. Yes, you might resort to some violent action. What else could happen based on anger and on ignorance? Self-destruction. Yes, sudden destruction. Self-destruction. Mm. Anything else? Is that it? There is. Yes. Poor relationships. Oh, poor relationships. Yes. Yeah. Okay. Okay, anything else? What about your speech? Will it be totally truthful and gentle, pleasing to the ear, soothing to the ear, or not? Mm-hmm. Not. So, out of ignorance, we can at least under certain circumstances or in extreme situations expect serious, unwholesome consequences, such as the taking of life, such as taking what is not given, so in other words, stealing, sexual misconduct, as well as engaging in wrongful speech and taking intoxicating substances. E quindi diciamo dall'ignoranza ci possiamo aspettare solamente che possano venire azioni come prendere la vita di qualche essere vivente, oppure di rubare, oppure qualche azione sessuale non salutare, prendere intossicanti e infine anche mentire. Yeah, false speech. And certainly further, more we're likely to engage or we're likely to covet others' properties, so strongly desire others' property. E quindi sì, anche possiamo aspettarci che possiamo avere un forte desiderio nelle proprietà altrui. And ill will is likely to arise as well as certain wrong views. E quindi malevolenza come visione sbagliata delle cose può sorgere. So, in essence, the 10 kinds of misconduct, namely the 3 physical forms of misconduct, the 4 forms of verbal misconduct, and the 3 forms of mental misconduct, are likely to arise based on ignorance. E quindi le 10 forme di condotta riprovevole possono sorgere, sono 3 verbali, 3 fisiche e 3 mentali. And 4 verbal. 4 verbali. And so the 4 verbal actions are false speech, as engaging in backbiting, engaging in harsh speech, and engaging in gossip. Quindi le 4 azioni verbali riprovevoli sono mentire, usare parole dure, parlare male degli altri alle spalle e spettegolare. Now, things won't end with this. So if ignorance arises in the mind, then negative actions or unwholesome destructive actions are likely to follow. And when we perform an action, kamma in the Pali scripture language, then we have to be prepared for the so-called karmic results, vipaka in the Pali scripture language. E quindi appunto quando c'è l'ignoranza anche nelle azioni, ci dobbiamo aspettare appunto dei risultati karmici da queste negativi, da queste azioni, vipaka in Pali, based on our actions, basati sulle nostre azioni. And so in the end, if we act out of ignorance, then the karmic results will fall onto our head. E quindi se ci comportiamo in base all'ignoranza, le ripercussioni karmiche ci ritorneranno, ci cadranno in testa. No, the Buddha has clearly stated with regard to the 3 roots, these things are unwholesome, blamable, and censored by the wise. Il Buddha, rispetto alle 3 radici non salutari, ha detto queste sono cose, azioni che sono riprovevoli e sono censurate dai saggi. Yes, and they are unwholesome. E sono non salutari. And so if we engage in these, then they will lead to harm and suffering. E se ci intratteniamo, se facciamo queste azioni, ci porteranno dolore e sofferenza. Therefore, give them up. E quindi abbandonateli. So, the next point then is, how do we give up the ignorance, confusion, or delusion that has arisen in the mind? Quindi il prossimo punto è come facciamo a abbandonare l'ignoranza, la delusione, la confusione. And so, the Buddha has also clearly stated, and this is encouraging, that they can be abandoned. Il Buddha ha anche affermato, ed è incoraggiante, che queste radici possono essere abbandonate. Possono now, essere. The first, no, the first and foremost way of dealing with ignorance, obviously, is mindfulness. Quindi la prima dei modi per abbandonare l'ignoranza, naturalmente, è la consapevolezza. Now, apart from this, we can limit, so to speak, the results, destructive results of ignorance by observing an ethical code of conduct, namely through sila. E un altro modo, un modo per limitare gli effetti dell'ignoranza, delle radici negative, è quello di seguire una condotta etica. In poche parole, è quello di seguire sila. So with the sila, we then simply no longer engage in acts such as taking life and stealing and so on. Quindi seguendo la condotta morale sila, semplicemente non facciamo azioni come rubare, come uccidere e via dicendo. No. We can also make a difference with regard to ignorance by using concentration. Namely, with the help of concentration, we then suppress the ignorance and other unwholesome mental states that arise together with it. Un altro modo per avere a che fare appunto con queste radici non salutari è quello della concentrazione. Con la concentrazione possiamo sopprimere questi stati mentali negativi. And so it is by being mindful that wisdom arises, and or by being mindful concentration arises, based on this wisdom arises, and certainly with this then ultimately at the very end of this path then ignorance gets uprooted from the stream of consciousness. Quindi con la consapevolezza che poi appunto e la concentrazione a sua volta genera la saggezza. Attraverso questo passaggio, alla fine, attraverso questo possiamo totalmente sradicare l'ignoranza dal flusso della coscienza. So it is through sila, the training in sila, that we overcome the transgressive ignorance. It is through training in concentration that we overcome the obsessive ignorance, and it is certainly through the training in wisdom that certainly we overcome the latent forms of ignorance. Quindi attraverso la sila che possiamo superare l'ignoranza trasgressiva, con la concentrazione superiamo la l'ignoranza, diciamo l'ossessività ossessiva, e attraverso la saggezza la saggezza che noi possiamo superare le forme negative latenti che sono dormienti nella mente. No. The next unwholesome mental state or afflictive emotion that we will deal with is that of greed or sensuous desire. Il secondo stato mentale negativo con cui andiamo a parlare è l'avidità o il desiderio sensuale. And certainly this covers things such as grasping for sense objects, but it also contains or it also covers liking, wishing, wanting, and included here is also lust. quindi questo include l'avidità, il attaccarsi agli oggetti, il desiderare, il desiderio, il lussuria. Now, no, this sense desire might arise with regard to any desirable object in connection with the six sense doors. So sense desire could arise with regard to an attractive visible object, something that we see with the eyes. It could arise in connection with hearing a desirable voice or song or music or whatever you have. And then it could also arise with regard to some fragrant smell or scent that occurs. And then the same thing goes for various delicious tastes, as well as a great variety of exquisite bodily sensations, pleasing, soothing bodily sensations. And it might also arise in regard to mental desirable mental objects. Quindi diciamo questo desiderio sensuale nasce, sorge attraverso appunto i sensi, come appunto attraverso la vista ci può essere desiderio per oggetti, per forme, colori. Attraverso le orecchie il senso dell'udito c'è un attaccamento, un attaccamento, desiderio sensuale per voci piacevoli, musiche. Attraverso l'odorato, quello di odori, profumi piacevoli, e attraverso il senso del gusto per sapori piacevoli, per il corpo, per sensazioni diciamo di piacevoli di contatto. E infine anche attraverso la mente possono sorgere questi desideri sensuali per forme mentali attraenti. And so one result of this is for meditators that when the sense desire is there, then we want to look around. We want to look around, we want to see beautiful things, we want to enjoy those. So the mind, or it's difficult then to control one's eyes and by the same token also one's ears and so on. Quindi il risultato per i meditatori quando appunto hanno presente nella coscienza questo desiderio sensuale è che è difficile mantenere una vista stabile, gli occhi si muovono, cercano. E lo stesso per gli altri sensi. So around here it's rather beautiful, so one might certainly want to enjoy the scenery, the mountains around, or if some bird is chirping, one might get interested in this bird and trying to see the bird, see its colors, and then enjoy the smell here of the trees and so on and so forth. E quindi qui intorno diciamo ci sono dei bei paesaggi, quindi la vista potrebbe essere attratta da questi posti, da queste colline, oppure un suono, i suoni degli uccelli ci possono attrarre e ne vorremmo vedere i colori, vorremmo vedere com'è fatto, oppure gli odori di qualche albero e così via. No. In terms of the classical definition of this mental state of sense desire, its characteristic is that of grasping an object. Quindi la caratteristica di questo desiderio sensuale, la sua come si manifesta, come la sua caratteristica è quella di volerlo attaccare, prendere. And suddenly its function is as sticking, just as meat is sticking to a frying pan. E la sua funzione è quella di incollarsi, appiccicarsi, come la carne si attacca alla padella bollente. Now, when one is grasping an object, then one will not, when one desires an object and thus grasps the object, one will not let go of it. And sense desire then is manifested as not giving up. Quindi quando uno ha, diciamo, afflitto da desiderio sensuale, c'è questo attaccamento, e appunto la manifestazione dell'attaccamento è quello di non lasciare andare. And then it's the proximate cause in connection with sense desire is given as seeing enjoyment in objects or in things that ultimately lead to bondage. Quindi la causa prossima in connessione con l'avidità, con il desiderio sensuale, è il vedere piacere, sentire piacere in delle sensazioni che in verità creano legame, attaccamento. So from a practical point of view, means that let's say because it's tradition here in this country to let's say have a meal together with red wine, white wine, depending on depending on the meal. So one then sees enjoyment in drinking this let's say red wine, and one over time one might not realize that in the end one is developing an attachment or even an addiction to red wine. E quindi diciamo, come per esempio in questa nazione, uno c'è abitudine di bere vino a tavola, questo bere vino appunto viene da una sensazione piacevole, e questa sensazione piacevole però con il tempo, senza che uno se ne rende conto, può creare una dipendenza dal vino. No. The Buddha has certainly carefully studied certain sense desire and certain other unwholesome mental states, and certainly he points out that if we give unwise attention to these certain beautiful objects, whatever the object might certainly be, and we look at it again and again, or we listen to it again and again, well, naturally we will then, or naturally that sense desire will increase. Quindi il Buddha ha detto, dopo aver diciamo osservato, studiato questa caratteristica desiderio sensuale, è che se noi osserviamo un oggetto senza un'attenzione saggia, senza un'attenzione giusta, piano piano questa osservazione ci porta, questo attaccamento ci porterà, ci porterà sempre di più a essere dipendenti, sempre di più a essere attaccati verso questo oggetto. No. A practical example in this regard: at time, upon seeing some attractive woman or man, we might suddenly get lost in sensual fantasies, and these fantasies go on and on and on, and we enjoy them tremendously, and we don't find anything wrong with this, and that's the problem. So this habit of engaging in, habit of engaging in and tolerating, sensuous, thoughts or fantasies, then gets strengthened, and then it will be, and then the sense desire gets even greater. Quindi diciamo un esempio pratico è che se per esempio guardiamo una bella donna oppure per il sesso opposto un bell'uomo e viene del desiderio sensuale, cominciamo a fare delle fantasie e non ci vediamo niente di sbagliato in questo, e qui sorge il problema, perché questo si forma un genere di attaccamento che diverrà sempre sempre più forte. On the other hand, the Buddha says that when some desirable object has risen, if we don't give attention to it, we don't pay attention to it, then this will lead to a weakening of the sense desire. Quindi per contro il Buddha ha detto che se invece di quando sorge un oggetto desiderabile, quando vediamo il soggetto desiderabile, non ci prestiamo attenzione, lo ignoriamo, per contro questo desiderio di attaccamento diventa sempre più debole, scompare. No, as suddenly so often, how or as so often, the best way to deal with this sense desire is suddenly really mindfulness itself. E quindi in finale diciamo il miglior modo per avere a che fare con il desiderio sensuale è la consapevolezza. No, other ways of dealing with the sense desire have been mentioned. A very effective one is simply restraint of the senses. So even if some attractive object is there, we simply don't look at it, and thus there won't be any consequence arising in the mind. E quindi si sta molto semplice anche per appunto per avere a che fare con il desiderio sensuale è quello di non prestare attenzione, di ignorare quando qualcosa di desiderabile sorge. Appena diciamo non prestargli attenzione. The Buddha further recommended as an antidote to sense desire is to reflect or to contemplate the body's impurity. Un altro mezzo suggerito dal Buddha per contrastare come antidoto verso l'attaccamento al desiderio sessuale è quello di riflettere, di contemplare sulle impurità del corpo. No, ovviamente other forms of dealing with sense desire exist, but we don't have the time to go into all of those. Altri modi per maneggiare, avere a che fare con il desiderio sensuale ci sono, ma adesso non abbiamo il tempo per andare per vederli tutti. Now, the next mental state or mental factor that we will discuss is suddenly that of, anger. Il prossimo stato mentale che andiamo a descrivere è quello della rabbia, dell'avversione. Now, when sitting in or when engaged in intensive mindfulness practice, anger may arise on occasion. Quindi quando ci ingaggiamo, quando in meditazione, è probabile che la rabbia possa sorgere. Can you think of causes that lead to the arising of anger? Potete pensare a qualche causa che possa pensare a che possa creare, che possa far sorgere la rabbia? Real practical causes. The same as qualche before, pratica, qualche causa, sì, pratica. Same as before. Such as violence, self-destruction, No, causes that lead, objects or things that can bring about anger. Being misunderstood. Being misunderstood, and then thus getting angry. Yes. Yes, indeed. Anything else? Is that all? Disrespect. Disrespect. Yes. Non essere rispettato. Impatience. Yes. Okay. Although the impatience itself is already a form of anger, I think one can say this. Anything else? Turning up the light when you want to be. Here comes a practical example. Ho detto accendere la luce quando uno invece vuole meditare al buio. Or in Asia, it's quite, at times it can be quite hot, and then oftentimes there are fans in the rooms, and some people very much want the fans on, and others very much hate those fans and want them to be turned off. And so if you have those two groups of meditators practicing together in the same hall, you can imagine what can happen. Quindi diciamo qualcosa che è una cosa che succede spesso, per esempio in Asia quando fa caldo, che ci sono i ventilatori e ci sono persone che amano stare col ventilatore acceso a tutta forza e altre invece che non lo vogliono assolutamente. Quindi potete immaginare quando ci sono due gruppi di persone con queste due caratteristiche nella stessa sala quello che può succedere. And so there has been one case in Burma when this actually led to almost a fist fight. E c'è stato un caso come questo in Burma che a momenti ha portato a una scazzottata. No, I hope this is not going, or I believe that this will not happen here. Credo che non succeda questo. No. The anger may still arise in many, or may arise because of many other factors. I'll give you a hint. So you sit in silently, you sit in meditation, and all of a sudden you remember some really lousy statement by someone else, and then you get angry. And then the immediate cause is just the memory of something that took place maybe 5 years ago. So this is very, very common. Vi posso dare qualche altro esempio di quello che potrebbe succedere, come se state sedendo in meditazione e a un certo punto vi ricordate, viene in mente una mala parola detta da qualcuno e improvvisamente questa cosa vi genera rabbia, anche se questa cosa è generata da una memoria magari di qualcosa successo 5 anni fa. And then when this anger has arisen in the mind, then such a yogi might, or in the mind, not just in the mind, might already start a quarrel with another person, with that other person. E quindi una volta che questa rabbia è salita, è sorta, allora lo stesso meditatore che sta lì in meditazione a un certo punto può nella sua mente iniziare una diatriba, una discussione nella sua mente con questa persona. Or let's say if you're lining up for lunch and then all of a sudden someone else from the back of the line who cuts ahead or cuts the line or cuts into the line and then stands in the first place. So this oftentimes creates some irritation among retreaters. Un altro esempio è questo, che se state in fila per la mensa, per andare a mangiare, a un certo punto qualcuno vi passa avanti, taglia la fila, e anche questo magari può generare un sintomo di avversione. No, the mental state of anger covers quite a spectrum of mental states, such as ill will, such as aversion, such as resistance, disliking. Quindi lo stato mentale di ill will, dell'avversione, copre uno spettro di stati mentali abbastanza ampio, come appunto quello dell'avversione, della malevolenza, della resistenza. Resistance, aversion, dissatisfaction. Insoddisfazione. And so, part of this could also be, literally blowing up. It leads. Blowing up, exploding. E questo può portare all'esplosione. Now, some people prefer to explode, others might decide to give another person the silent treatment, namely not to talk to him or her anymore. And this is also a form of anger. Quindi qualcuno potrebbe decidere di esplodere, di scoppiare come, risultato, altri invece dovrebbero decidere di usare il trattamento del silenzio, cioè di non parlare più con quella persona, evitarla. Ma anche questo è un risultato dell'avversione. No. The classical definition of anger is helpful for a better understanding of this mental state, and its characteristic is given as ferocity or savageness. Quindi la classica definizione dell'avversione può essere spiega meglio che cosa è questo questo stato mentale. Ferocity. Ed è il definito come la ferocità. E la savageness, selvaggia, non è proprio qualcosa a che vedere con selvaggio comunque. And it's compared to a snake that has been provoked and is hissing it or is raising its head and ready to attack. Ed è comparato a un serpente che viene provocato, che alza la testa, soffia ed è pronto per attaccare. No, the first function of anger is certainly to spread, just like a drop of poison or acid certainly will spread. And the second function of anger is that of burning up its own support, namely the body and the mind. Quindi la prima funzione della, della rabbia, dell'avversione, è quella è come se viene definita come delle gocce di veleno che si spandono sulla superficie. Oppure la seconda funzione è burning up. È quella di bruciare il supporto stesso, che è la mente e il corpo. And so this is certainly compared to a forest fire that burns up its own support, namely the forest. Ed è comparata a un fuoco boschivo che brucia il suo stesso supporto, gli alberi. No. It is this anger is manifested as persecuting. So persecuting, like one would go after an enemy when a good opportunity arises to do so. E si manifesta come come persecuzione, come andare dietro al nemico e cercare di colpirlo, di fargli del male. No. The proximate cause for the arising of anger is something given as a ground for annoyance, and this can basically be anything. E quindi la causa prossima per la per l'avversione è data essere la ground for annoyance. Ground for annoyance. Mm-hmm. A cause for annoyance. Sì, una causa per il disturbo. Yeah. Okay. And so, yeah, so a person who doesn't let me see. So to one person, noise is no problem, But to another person, noise can be a big problem. And so then when some sound is there, then the sensitive person gets all upset, all angry. Quindi diciamo come il rumore per una persona non può non creare nessun problema, mentre per un altro può essere una fonte di grande disturbo, e quindi questa persona si può alterare per questo. No, we have earlier on already mentioned a number of causes, a number of conditions that might lead to the arising of anger. Quindi prima già abbiamo menzionato alcune delle cause che possono portare al sorgere della rabbia. No. This state of anger is a dangerous state, and certainly it might lead to all sorts of negative consequences. Questo stato della rabbia è uno stato molto pericoloso che può portare a tanti risultati, a tante conseguenze. And certainly when we deal with anger, and then it's really important not to get carried away by the cause for the anger, the ground or the condition for the anger. There may be 10,000 different causes for anger to arise. But in the end, what matters is that we look at the anger itself and that we come to know its nature and thus understand it and then are able to let go of it and to see through it. Quindi diciamo, per quanto riguarda la rabbia, ci possono essere tantissime cause che portano al suo sorgere, ma l'importante è che noi non rimaniamo incastrati sulle cause, ma una volta che è sorta dobbiamo guardare direttamente alla rabbia e vederne le sue caratteristiche. And certainly the human mind has certainly the tendency to justify the anger that has arisen. Yes, I'm right to be angry with this or that person. But there's no need whatsoever to get caught up in this justification. We need to look at the anger itself. È una cosa molto usuale negli esseri umani che tendono a giustificare la propria rabbia. Sì, ho ragione, è stato per quello o quell'altro. Ma non è questo, noi dobbiamo cercare di guardare alla rabbia stessa. No, obviously if we keep thinking destructive thoughts of harming others, causing suffering to others, then the anger will what? Increase or decrease? Increase. And so we then want to avoid this. If we want to deal with the anger, we want to de-nourish such destructive thoughts. Quindi se sorge la rabbia e cominciamo a nutrire dei pensieri di avversione, di provocazione, di voler causare del danno ad altri, chiaramente la rabbia non potrà far a meno di aumentare. Invece dobbiamo evitare questo, dobbiamo cercare di evitare questi pensieri e farla diminuire. No, when we deal with anger, we want to bring as much mindfulness to it as possible, and this then will help us to really clearly understand its nature. Now, other ways of dealing with anger that have been recommended are to study loving kindness, meditation, and then actually practice it. Quindi un modo importante per avere a che fare appunto con la rabbia è quello della consapevolezza, per andare a fondo, per capirne le caratteristiche. E un altro modo è quello di studiare e di praticare la gentilezza amorevole. And certainly in the face of loving kindness, or in the presence of loving kindness, the anger will subside. Nella presenza della gentilezza amorevole, metta in pari, la rabbia scomparirà. No. Somewhat related to anger is fear. That was also mentioned by at least two or three retreatants this morning during the interviews. Qualcosa che è molto collegato con la rabbia è la paura, che è stata appunto menzionata da due o tre meditatori nell'interview. No. This fear is considered to be a form, a sinking form of anger. La paura è considerata come una sinking, affondata, sì, una forma nascosta della rabbia. And so, it's not the aggressive type of anger, but rather the passive type where we swallow things and suddenly then fear arises because within us, and suddenly we don't know how to deal with the situation. È una forma passiva della rabbia, quando noi ingoiamo qualche cosa, viene paura e non sappiamo come maneggiare la situazione. No, fear is certainly clearly an unwholesome mental state, and it certainly may be experienced in the mind as extremely agitating, and then in the body we might experience it as a strong pounding of the heart and sweating and maybe even trembling of the body. Quindi la paura, che è chiaramente uno stato mentale non salutare, può essere sperimentata nel corpo e nella mente, nel corpo appunto come sudore, come il cuore che batte velocemente, nella mente? In the mind as agitation. Nella mente come agitazione. No. When fear arises, and this is common among human beings, then the continuity of our mindfulness is really important. Quando la paura sorge, che è normale negli esseri umani, quello che è importante è la continuità della consapevolezza. The reason for this is certainly very simple. When mindfulness is continuous, then unwholesome mental states have no chance to arise. In other words, fear cannot arise. But as soon as our mindfulness is discontinuous, at that point the fear can arise again. La ragione di questo è molto semplice, perché tanto che la consapevolezza è continua, semplicemente la paura non può sorgere, ma nel momento che c'è una discontinuità, un'apertura, in quel momento c'è uno spazio per la paura per sorgere. To put it simply, the best way to, or the efficient way of dealing with mindfulness is with fear, is really to face it down. Quindi il modo per avere a che fare efficientemente con la paura è quella di guardarla direttamente. No. Somewhat suddenly related is anxiety, and so being or anxiety being a sense of uneasiness over some expected misfortune. Qualcuno ha parlato di forme di ansietà generate da una non aspettarsi un qualche sfortuna, qualche cosa di negativo. It is certainly a disquieted, certainly a state of mind, and certainly, or one could say, a burdened state of mind. È uno stato di mente molto non tranquillo, molto sovraccarico. So there is an element of anger involved in this, or an element of disliking, is something that one is imagining to happen in the future, as well as an element of further agitation. C'è un elemento di rabbia, di avversione, di non piacere, qualcosa che è supposto di accadere nel futuro, e è agitazione. And with regard to anxiety, it's really important to understand that this is just a result of a poor use of the mind. Namely, we imagine something to happen, something terrible to happen in the future, but it's not guaranteed at all that this will actually happen. Per quanto riguarda l'ansietà, è sicuramente un uso povero, ridotto della mente, perché non è niente di garantito che quello che pensi che sia negativo possa succederà veramente. And so, if we let the mind go into anxiety again and again, then it can easily get quite agitated about many new things that might happen in the future. E se lasciamo che l'ansietà prenda piede, questo può succedere ancora e ancora per qualsiasi cosa che può succedere nel futuro. And certainly so. What works best with regard to anxiety is obviously again mindfulness, but also bringing the mind back into the present moment again and again and again, and simply to cut those imaginations of what might happen in the future. Quindi il miglior modo per maneggiare l'ansietà è quello chiaramente della consapevolezza e di portare la mente al momento presente, ancora e ancora, sempre dal momento presente, per tagliare tutte queste fantasie di quello che potrebbe succedere nel futuro. No, we're running out of time, so let us end here by wishing may this talk on the topic of understanding and handling afflictive emotions be helpful to all of you to properly handle those difficult mental states, and thus may you gain the upper hand over these afflictive emotions, and then as a result may many wholesome mental states arise and contribute to your peace and happiness. Finiamo qui questo discorso per una ragione di tempo. E quindi vi auguro che questo mi auguro che questo discorso possa contribuire a risolvere, a andare oltre questi stati mentali afflittivi, e che in certo modo possa portare invece a stati mentali positivi, sempre più positivi e salutari. Salve, salve, salve.